ringrazio la vostra comunità operativa che mi ha dato la possibilità di parlare di didattica, quindi ti ringrazio anche, ringrazio te per la presentazione. E diciamo, comincerei subito da dove? Questo è il primo problema. Cioè, la parola didattica è una parola complessa e la si può guardare da tanti punti di vista. Didattica è un termine che indica attività, ma non esattamente, non indica solo l'attività dell'insegnare, ma indica anche un qualche cosa, è un nome che indica un'entità. Che cos'è questa entità? Molto grosso modo è, chiamiamolo, un contenitore. Quindi la didattica può essere vista sia in termini di contenitore, contenitore di qualche tipo di conoscenza, e può anche essere vista come l'attività di usare questo contenitore per trasmettere conoscenza. Quindi è evidente che la parola didattica è fortemente connessa con tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione, e la parola comunicazione non va intesa in nessun modo riduttivamente. Non è la trasmissione dei dati, non è la trasmissione di informazioni telegrafiche, non è qualsiasi cosa che in qualche modo possa essere superata da una successiva definizione. La comunicazione è un'attività espressamente ed esplicitamente umana, che non ha assolutamente nulla a che vedere con le macchine. È un'attività che utilizza evidentemente una serie di supporti fisici. Gli umani sono più o meno esseri fisici, animati, che comunicano, hanno bisogno delle vibrazioni dell'aria per comunicare, hanno bisogno di un'infinita quantità di oggetti complicati, e la didattica è un supporto che entra in questo aspetto, nell'aspetto della comunicazione umana. Comunicazione umana che è sempre il fulcro, il punto principale di qualsiasi atto, quindi legato alla didattica. Naturalmente, dico, tutte le epoche hanno avuto qualche supporto, bene, dico, è inutile ripercorrere le tappe dello sviluppo, direi tecnologico, dell'uomo rispetto alla comunicazione, però in una certa misura conviene farlo. Bene, certamente una volta si scriveva su pietre, poi si è imparato a scrivere su tavolette di cera, poi si è imparato a usare la pergamena, poi cosa si è fatto? Si è inventata la carta. Non è finito lì, evidentemente sono nati altri oggetti, le tecnologie sono migliorate, sono nati supporti di natura diversa, ad esempio i supporti magnetici. Bene. Poi sono nati supporti di natura ancora differente, diciamo supporti ottici. Le stesse schede perforate sono un modo per mettere dei segni in qualche modo. Non sono gli oggetti della comunicazione, sono strumenti della comunicazione, sono cose che hanno dei buchi, e a seconda delle disposizioni dei buchi si vuol dire una cosa piuttosto che un'altra sulla base di convenzioni. Infine è nato il germanio, poi il silicio, adesso c'è l'arseniuro di gallio. Domani ci saranno dei dispositivi che si chiamano dispositivi di Josephson, sono molto piccoli, ve ne parlerò dopo, molto molto piccoli, che consumano pochissima energia e che possono memorizzare notevole quantità di buchi delle schede, diciamo, in un piccolissimo volume, con consumo di energia ridottissimo. Domani l'altro ancora, probabilmente, queste cose non saranno le stesse cose che venivano messe nelle pietre, nella tavoletta di cera, nella carta, verranno messe direttamente nelle molecole. Questo è grosso modo l'ordine di grandezza dell'evoluzione. Oggi siamo arrivati certamente a scrivere, anziché scolpire nel silicio in grosse masse, scolpire il silicio con degli strumenti microscopici, assolutamente microscopici, c'è bisogno del microscopio elettronico per guardare cosa succede lì dentro, e quindi in un piccolissimo volume, in un veramente modestissimo volume, sappiamo scrivere una grande quantità di buchi, o se volete di circuiti, o se volete di equazioni logiche, di sì o di no, di modi di circolare la corrente. Sono tutti modi di dire esattamente lo stesso concetto. In qualche modo diciamo, questo è quello che è successo. Tutte queste tappe sono evidentemente una tappa continua, si va verso la micro-miniaturizzazione e quindi domani verso i cosiddetti circuiti molecolari. Oggi sono un'utopia che naturalmente un certo numero di ricercatori cerca di scalfire, domani l'altro saranno molecolari, domani, vi dicevo, sono dispositivi di Josephson. Sono dispositivi, anche questi, basati su effetti della corrente elettrica, su cose che si chiamano dispositivi a superconduttore. Questa è la tecnologia. Fin qui è la trasmissione, diciamo, della conoscenza su supporto, diciamo. Quindi è come dire conoscenza, chiamiamolo conoscenza, di segni, di dati, senza essere troppo preciso in queste cose perché non conviene. Cioè, diciamo, disegni su un certo tipo di supporto. È chiaro che questo qui è un veicolo fondamentale per la comunicazione umana. Naturalmente io devo avere la possibilità di fare due cose: una è scrivere sulla pietra e leggere la pietra, sulla cera e così via di seguito, sulla base di convenzioni. Quando il dispositivo diventa piccolo, il modo di leggere e scrivere diventa complicato, diventa elettrico. Diciamo, oggi i mezzi di comunicazione con i dispositivi di Josephson, dell'uomo con i dispositivi di Josephson o con i circuiti molecolari di domani, è comunque attraverso un sistema, un apparato complesso che fa riferimento ai sensi, in qualche senso, di un qualche umano, e alla fine che scrive, diciamo, i sensi che decide di scrivere e un altro umano che decide di leggere. Questo è lo sviluppo, ma non è solo questo l'aspetto, diciamo, perché questo in un certo senso può essere guardato, né più né meno, come anche i semiconduttori possono essere visti da questo punto di vista. Voi avrete visto i vocabolari portatili, diciamo, ci sono dei piccoli dizionari portatili, bene, che si comprano, oggi probabilmente contengono già più di 6.000 parole, ma alcuni esistono che contengono 6.000 parole, per cui scrivete cane su una tastiera, cane, bene, sono tascabili e loro rispondono dog in inglese, a voce. Quindi questi dizionari sono, diciamo, un apparato molto complicato, fatto con dei circuiti a semiconduttore. Siamo nell'epoca del silicio e la tecnologia dominante di oggi è quella del silicio, è la tecnologia più importante dell'evoluzione dell'umanità in questo periodo, ma diciamo che lei sarà superata. In questo silicio, in questi pochi millimetri quadri della memoria centrale, ci sono scritte circa 6.000 parole. Bene. E un circuito permette di scriverle, un altro circuito permette di leggerle, addirittura di pronunciarle con un suono che assomiglia a quello di un umano, che noi capiamo come un suono di tipo umano. Bene. Questo è un aspetto, naturalmente questo è più o meno come un libro, diciamo, cioè il libro che viene letto, viene trasportato, quindi è un modo per registrare delle informazioni, fare degli archivi e per trasportarli a distanza. Questa non è la sola possibilità, perché, diciamo, sono nati anche i modi di trasmettere a distanza, quindi non solamente di registrare le informazioni su un supporto, che poi sia un libro fatto come questo, tascabile o no, con dentro del silicio, o sia un libro, diciamo, o sia un libro, pezzo di carta come questo, da un certo punto di vista poco importa rispetto ai problemi di comunicazione. Cioè, per trasportare l'informazione occorre quello che si chiama il trasporto fisico, ma non è la sola possibilità, come voi ben sapete. Diciamo, prima gli uomini comunicavano a distanza solamente attraverso gesti, poi hanno imparato a comunicare a distanza attraverso fumo, poi hanno imparato a comunicare a distanza attraverso sistemi acustici, diciamo, più o meno complessi, tubi di qualsiasi tipo, poi hanno imparato a usare la corrente elettrica, hanno imparato a usare il telegrafo, il telefono, la radio, che c'è stato certamente un passo importante, ma diciamo non importante sul piano del supporto fisico, ma sul piano delle comunicazioni, diciamo, era una semplice ed ovvia estensione di tutto quello che succedeva precedentemente. Subito dopo sono arrivati altri mezzi di comunicazione che riguardano che cosa? Riguardano i satelliti artificiali, e oggi siamo in presenza di un'altra tappa della comunicazione, sono le reti di elaboratori. Adesso sugli elaboratori non preoccupiamoci immediatamente, diciamo, cioè guardiamo che c'è uno sviluppo tecnologico tendente a mettere a trovare nuovi modi, nuovi supporti fisici per la registrazione di dati e di informazioni. Uno sviluppo tecnologico tendente a dire che la comunicazione, la trasmissione dei dati può essere fatta in modi differenti, con supporti differenti. Bene. Diciamo, naturalmente nel frattempo è nata anche la possibilità di trasmettere non esclusivamente dei segni convenzionali come quelli dell'alfabeto Morse o dei segni convenzionali come quelli di un alfabeto, va bene? È nata la possibilità di trasmettere anche immagini, registrare immagini, comunicare immagini unidimensionali prima e in una certa misura astratte, cioè togliendo certi dettagli. Astrazione vuol dire togliere dettagli, vuol dire solo quello, quindi astratte del colore, poi si è imparato il colore. Prima una sola dimensione, poi le immagini sono diventate tridimensionali, cioè, scusate, bidimensionali, poi tridimensionali, cioè piane e nello spazio. Questo è più o meno, quindi diciamo quello che sappiamo fare oggi in linea di principio, che si può fare certamente, è trasmettere immagini in movimento, a colori e che sembrano tre a tre dimensioni. Queste, diciamo, sono le cose che si sono potute fare. Allora, ripeto, c'è una tecnologia per la registrazione e una tecnologia per la comunicazione a distanza. Queste, quindi, diciamo, comprese le tecnologie degli elaboratori elettronici. Accanto a tutto questo ci si è accorti di un'altra possibilità che si chiama calcolo, il calcolatore. Bene, cos'è il calcolatore? Calcolatore, diciamo, che significato ha in ambito della comunicazione umana? Perché alla fine dei conti il discorso di registrare le informazioni in termini di comunicazione è facilissimo, bene? Il discorso di comunicare delle immagini in termini di comunicazione è facilissimo, ma anche l'elaboratore ha un significato di comunicazione, bene? E essenzialmente un significato di comunicazione. Dietro la parola calcolo in verità va visto semplicemente la possibilità che il dispositivo che comunica il significato, cioè che comunica come si dovrebbero fare certe cose, le sappia anche riprodurre. Esempio, se io scrivo come si fa la radice quadrata di un numero, devo scrivere tutta una lunga ricetta, va bene? Dice, si prende il numero, lo si scrive in un certo modo, vi ricordate come non lo sapete mica più fare neanche voi, va bene? Diciamo, per colpa di queste macchinette, diciamo, non mica altra la ragione, diciamo, l'esistenza degli elaboratori elettronici fa sì che la radice quadrata probabilmente non la sappiamo più fare, va bene? È un piccolo segno evidente di didattica in questo campo. Comunque sia, che cos'è la spiegazione? È un testo scritto in un linguaggio naturale in cui c'è scritto fare questo, poi fare quest'altro, poi fare quest'altro ancora, se succede questo fare quest'altro. Vabbè, dico, alla fin dei conti, visto che sul silicio sappiamo scrivere dei dati, perché non mettere il dato e farglielo fare al silicio questa operazione? Questo è il senso generale dell'elaboratore elettronico, cioè un elaboratore che spiega come si fanno le cose, dice. Cioè è un testo, un elaboratore elettronico, è un testo, una descrizione scritta in un linguaggio, che perché no, è il linguaggio naturale, diciamo non ancora, oggi non è così, è un linguaggio stilizzato, preciso, si chiamano linguaggi di programmazione, si chiamerà Fortran, si chiama come volete, comunque è un linguaggio in cui si precisa come si debbono fare certe operazioni. Ma se questo stesso pezzo di carta è in grado di specializzarsi sul vostro problema, ad esempio è in grado di farvi vedere come si fa la radice quadrata di 44, bene, perché non dovrebbe farla lui la radice quadrata di 44? Ecco, questo è il significato dell'elaboratore. L'elaboratore elettronico, quindi, è uno strumento che permette di astrarre non dalla distanza, che è il caso della comunicazione via rete telefonica o via satellite artificiale, non dalla presenza fisica, che è il caso del trasporto fisico della registrazione su archivio, perché io questo pezzo di carta lo posso guardare, posso comunicare con me stesso anche il giorno dopo, lo posso dare a lei, va bene? Quindi posso astrarre dal tempo e dalla distanza, ma anche dal caso specifico che stiamo trattando. Quindi è una delle dimensioni dell'astrazione, cioè l'elaboratore in termini di comunicazione umana è un enorme strumento, un potentissimo strumento che permette di comunicare in generale e quindi di realizzare il caso particolare. Cioè permette di fare in modo che io impari non la radice quadrata di un qualsiasi numero, ma la radice quadrata di 44, i dettagli, e se ne occupa lui direttamente. Questo è in termini di comunicazione. È tutto? No, non è tutto. Non è tutto, perché evidentemente va bene, diciamo, ma abbiamo detto che i mezzi di comunicazione sono mezzi di comunicazione umana. Quindi evidentemente tutto ciò fra il nucleo centrale di un dispositivo di memoria o di un elaboratore elettronico ci deve essere una cosa che si chiama interfaccia fra uomo e macchina, diciamo. Questo è l'altro aspetto dell'evoluzione. L'evoluzione su questo aspetto dell'interfaccia uomo-macchina è appena iniziata, diciamo. È la parte più futuribile di tutto il discorso. Vediamo un attimo, quindi, diciamo, dove siamo oggi con la tecnologia. La tecnologia ha scoperto l'elaboratore elettronico, ha circa 30-40 anni, diciamo, l'elettronica era un'industria che non c'era. Oggi si avvicina ad essere probabilmente la terza, ma è probabilmente già la seconda industria del pianeta, petrolchimica, automobilistica e elettronica, ma probabilmente l'automobilistica è già in declino e l'industria elettronica è già diventata probabilmente la seconda. E cos'è successo però? È tutto questo, d'accordo, una grande industria, ma è successa una cosa importantissima. Ad opera di un fisico, Faggin, dell'Università di Padova, è nato il microprocessore. Bene? Il microprocessore che cos'è? È un elaboratore elettronico di quelli che vi dicevo prima, diciamo di uso generale, quindi che permette di comunicare, diciamo, semplicemente qualsiasi forma di ricetta che in un certo senso è pensabile in termini finiti. Bene? E che è realizzato proprio sul silicio, su quel componente fondamentale i cui sviluppi sono attorno a San Francisco in una certa valle che si chiama la valle, la Silicon Valley, la valle del silicio. Lì è il posto dove si pensa più o meno tutto, va bene, in questo campo. Il microprocessore è un oggetto che permette questi calcoli, è un componente unico, diciamo, che è reso possibile dalla tecnologia del silicio. La tecnologia del microprocessore ha fatto sì che questo unico componente si comporta come un grosso elaboratore e ha costi terribilmente modesti. Il fatto, diciamo, del costo è diventato un fatto di qualità, e questo un attimo bisogna soffermarsi per capire come la didattica entra in questo problema. Io cerco di presentarvi questi aspetti in termini di didattica, ma sono moltissimi gli aspetti che coinvolgono la didattica, e questa questione del costo è il punto centrale. Il costo del calcolo, diciamo, quindi abbiamo detto, c'è la registrazione delle informazioni, chiamiamoli archivi per brevità, la trasmissione delle informazioni, bene? E il calcolo, l'elaborazione, il costo del calcolo si riduce di un fattore 10 ogni 5 anni. Cosa vuol dire questo? Che in 10 anni si riduce di un fattore 100, in 15 si riduce di un fattore 1000, quindi l'elaboratore che oggi costa, facciamo 10.000 lire, bene, fate un po' il conto, 15 anni fa costava circa 1000 volte tanto, e fate il conto di cosa costerà fra 15 anni. Cioè, diciamo, lo sviluppo dei costi è esponenziale. Questo è il dato che va tenuto fermamente presente per capire il senso dell'evoluzione d'oggi. L'altro aspetto, pure determinante, è che il costo delle informazioni sugli archivi, del dato sull'archivio, cambia più o meno nella stessa entità. Il costo della trasmissione dei dati no, è più lento. Diciamo, il cambiamento del costo della trasmissione dei dati ha un'evoluzione che non è così rapida come il costo della memorizzazione, perché i cavi telefonici e i satelliti artificiali e tutte queste cose qui costano notevolmente, e per quanto anche loro, anche i satelliti artificiali, che prima sembravano imprese solamente possibili a strutture enormi, diciamo, oggi diventano pensate anche da strutture notevolmente modeste. ma la riduzione dei costi ha cambiato completamente il panorama dello sviluppo dell'informatica. Perché? Perché un'industria, diciamo, della dimensione dell'industria informatica si è trovata nella necessità, per sopravvivere alla competizione di un'altra industria che riduceva i costi più velocemente, di ampliare il campo delle applicazioni. Bene. Quindi oggi siamo in presenza di modi di sviluppi completamente nuovi, diciamo, tali da far gridare a qualcuno, a qualche forma di, diciamo, di far credere che sia importante qualche forma di limitazione delle nascite. Ci sono degli esperti nella Valle del Silicio che gridano: è ora di cominciare a fare qualche limitazione delle nascite. Che cosa bisogna limitare? La nascita dei nuovi microprocessori. Naturalmente questo è un'idea che non sembra funzionare, perché nel frattempo è nata un'altra tecnologia che si chiama quella VLSI, vuol dire Very Large Scale Integrated Circuit, che porta la densità dei componenti elettronici in pochi millimetri quadri da circa 100.000, 1 milione come siamo adesso nei più complessi, a oltre 10 milioni di componenti, e questi sono 10 milioni di componenti elementari, come dire 10 milioni di equazioni logiche piccole, semplici, diciamo, questo è un discorso. Comunque porta una notevolissima complessità di calcolo. Per punto, millimetro quadro. Non per, per quasi centimetro quadro, quasi centimetro quadro. Questo significa che circa nell'85 il più grosso elaboratore, che si possa immaginare esistente oggi, sono grossi, complicati e costosissimi, sarà più o meno riducibile a un oggetto della dimensione di questo orologio. Questo attorno al 1985, tanto per avere un'immagine. Cioè siamo ancora nuovamente in presenza quindi di un tasso evolutivo fortissimo sul calcolo, sulla velocità di calcolo, sulla potenza del calcolo e sugli archivi. Ma c'è un altro fatto, importante. La registrazione delle informazioni sta cambiando forma. Oggi la registrazione degli archivi si fa su supporto magnetico, su cassette magnetiche, su dischi magnetici, su tamburi magnetici e un po' sui semiconduttori, un po' sulle memorie cosiddette a bolle, che non sono ancora gli oggetti 100% affidabili, sono delle cose tecnologicamente molto complesse che rendono possibili elaboratori tascabili di notevole dimensione, ma fa la comparsa la registrazione di immagini su quelle cose che si chiamano videodischi. I videodischi sono dei dischi di plastica in cui vengono fatti dei forellini, bene, da un laser, bene, da un raggio di luce molto sottile, e a seconda delle configurazioni dei buchi si registrano delle informazioni. Oggi vengono usati quasi esclusivamente per registrare immagini televisive, bene, però domani saranno usati per registrare, in effetti i progetti sono già pronti e già funzionanti, ma nessuno li mette sul mercato per paura di distruggere il mercato stesso rispetto ai prodotti già esistenti. Bene. Comunque domani su un videodisco grosso così sarà registrato l'equivalente di 900.000 pagine di informazioni, 900.000 pagine scritte. È un videodisco che vi lascio costare il costo. Cioè cosa sta succedendo? Sta succedendo un fatto che era inevitabile nella storia dell'umanità. Il costo della carta cresce. Il costo della carta cresce inevitabilmente, e questo è un dato abbastanza importante. Il costo della registrazione elettronica dei dati decresce costantemente. È chiaro che già oggi moltissime applicazioni che richiedono la registrazione di informazioni di qualsiasi tipo hanno nella registrazione elettronica dei dati sotto forma magnetica o ottica o nel silicio già il migliore dal punto di vista del costo, da questo limitatissimo punto di vista, ma che è pure un punto di vista molto determinante, il migliore supporto. Bene, è evidente che man mano che passa il tempo questo processo si generalizzerà. Bene, si generalizzerà e si andrà incontro a un altro tipo di evoluzione che si chiama non più l'informatica, ma si chiama automazione di ufficio. Questo è importante per capire il senso dell'informatica. Cos'è l'automazione d'ufficio? L'automazione d'ufficio è una cosa di cui si parla molto oggi. Bene. è una cosa, diciamo, già sperimentata in molte sedi, è una cosa che sostanzialmente può anche essere parafrasata dicendo l'automazione d'ufficio è la realizzazione di processi produttivi di tipo intellettuale senza carta. Bene? Cioè si chiama anche paperless office, l'ufficio privo di carta. Questa è la situazione, diciamo, verso cui si sta andando, è il punto reale. Diciamo, cioè gli elaboratori cominciano a costare pochissimo. Non lasciatevi impressionare da questo pochissimo sul componente, perché quando voi andate a comprare un elaboratore lo pagate ancora molto, va bene, ma perché vogliono darvi di più di quanto probabilmente abbiate realmente bisogno? Diciamo, quindi la ditta che compra un elaboratore spende ancora molto, d'altra parte deve anche spendere per gli sviluppi, per gli investimenti degli sviluppi successivi. Quindi, diciamo, cosa viene pagato un elaboratore oggi è difficile di stabilire esattamente. Sta di fatto che è già successo un fenomeno che si chiama elaboratore personale. Bene? Cioè l'elaboratore personale che ho la piccola calcolatrice tascabile che sostituisce il regolo calcolatore, che tuttavia è uno strumento di considerevole potenza. I piccoli calcolatori, diciamo, che oggi si mettono in tasca, quando gli elaboratori erano a tubi elettronici prima che nascessero i transistori, per funzionare avrebbero richiesto l'energia elettrica prodotta dalle centrali del Niagara, cioè sono oggetti di non trascurabile complessità. Naturalmente è completamente volatilizzata la vecchia utopia che pensava un elaboratore in Australia, uno in Europa, uno negli Stati Uniti e così via di seguito. Diciamo che l'utopia di oggi è circa 12 elaboratori per famiglia nel 1985. Va bene? Questo è il dato dove si sta andando. Va bene? Naturalmente, attenzione, tutto ciò non significa niente. Significa semplicemente che è comparso un oggettino di cui bisogna tener conto. Sulla didattica. È chiaro che in questo quadro il mondo della didattica cambia. Come cambia? Cominciamo a guardare una cosa. Come cambia il mondo della ricerca? La ricerca oggi ha a disposizione delle reti di elaborazione dell'informazione. Bene? L'ultimo che ho imparato è bellino, quindi ve la racconto perché è fresca. L'ho imparata ieri sera. Bene? Diciamo, si chiama Cognitive Net, rete della conoscenza di un certo tipo di scienziati. Ci sono delle persone che si occupano di scienze cognitive. Bene? Sono delle persone che vivono più o meno in vari posti per il pianeta, non solamente negli Stati Uniti, e che si occupano di certe cose che hanno a che fare con la conoscenza. Vogliono capire come l'uomo realizza i processi cognitivi, conoscitivi, diciamo così, realizza questi processi e vogliono farne dei modelli computerizzati, perché è evidente che, diciamo, tutta questa utopia più o meno vuole riprodurre se stessa, cioè vuole fare uno sviluppo di una civiltà meccanica. Bene, questi signori si stanno organizzando, hanno una rete di elaboratori, comunicano via telegrafica fra di loro, tengono l'elaboratore acceso 24 ore su 24, comunicano in un modo cooperativo. In pochi anni saranno alcune centinaia, forse migliaia di persone, i più competenti di quel tipo di disciplina, avranno a disposizione archivi enormi, tutte le informazioni bibliografiche del caso, non faranno certo fatica ad andare a leggere in una biblioteca comunale cosa ha scritto il signor XY, per il semplice puro fatto che non ne avranno nessun bisogno, perché il signor XY sarà connesso con quella rete e glielo possono chiedere direttamente. Comunicheranno esclusivamente fra di loro, ogni tanto quando decideranno di distribuire al volgo, anche a me, bene, un certo tipo di informazione la stamperanno, se però io vorrò sapere qualche cosa di subito andrò a visitare, a fare il visitatore in questa nuova realtà, in questa nuova giungla di informazioni con dei laghi, diciamo con delle cose incredibili, farò il visitatore di questa rete di elaboratori e imparerò qualche cosa, diciamo, su quello che stanno facendo. Questo è un esempio di una realtà, ma tutte le università americane oggi, tutte, sono connesse da una rete che si chiama rete ARPA, diciamo, che è la rete della ricerca scientifica. Ce n'è un'altra che si chiama Educational Net, di EduNet, che si occupa invece di educazione. Bene. La rete ARPA comunque è connessa con tutte le università, tutti i centri di ricerca, ed è abbastanza interessante praticamente usarla, impiegarla per vedere cosa stanno facendo tutti gli altri e per vedere la forma, come cambia l'organizzazione del lavoro scientifico. L'organizzazione del lavoro scientifico è diventata integrata a tempi di risposta brevissimi, bene, dall'oggi al domani, e la produzione di conoscenza è cambiata radicalmente. Attenzione, combinate a questo, all'altro aspetto che vi dicevo, la microminiaturizzazione. La microminiaturizzazione ha messo in evidenza, è un aspetto importante sul cambiamento della didattica, che pochissime persone molto preparate hanno una capacità progettuale superiore qualche volta alla capacità progettuale in campi specifici, per ragioni che vedremo, delle grandi, grandi sistemi multinazionali. Diciamo, i grandi sistemi multinazionali hanno certamente le grandi idee, hanno i mezzi certamente per svilupparli, hanno i mezzi per produrli, ma quando hanno deciso di produrre un certo tipo di prodotto sono inevitabilmente dei giganti legati a quel prodotto. Non possono cambiare produzione perché rischiano di avere la struttura completamente inefficiente. Piccole aziende produttive, usando le conoscenze che oggi sono disponibili a tutti, perché quel tipo di conoscenze sono disponibili, non sono più il patrimonio di un individuo o di una ditta, sono il patrimonio della rete ARPA, sono il patrimonio dei finanziamenti dell'esercito americano o di qualsiasi altra entità che in qualche modo comunica, e non può comunicare, perché se non comunica rischia di non avere la stessa competenza che hanno altri. Il risultato è che piccole aziende oggi sono diventate lo strumento della creatività e quindi del cambiamento dell'immagine. Naturalmente queste piccole aziende, come tutte le aziende, come tutti i sistemi sociali, hanno uno scopo e uno solamente, direi, sopravvivere. Bene? Quindi prima di vivere, poi sopravvivere. Sopravvivere e possibilmente vivere anche bene. Bene, quindi fanno di tutto per cercare di entrare in questo tipo di mercato, e oggi la situazione è tale che si è formato, diciamo, un circolo vizioso, nel senso che per controbattere questo sviluppo le grandi aziende multinazionali non hanno che un modo, bene? Seguire quel modello di sviluppo. Le grandi aziende multinazionali non vogliono uno sviluppo così accelerato, probabilmente, ma nessuno probabilmente vuole uno sviluppo così accelerato dello sviluppo dell'elettronica e quindi anche dei cambiamenti della didattica. Però ci sono delle aziende piccole fatte con persone molto preparate e fortunatamente o sfortunatamente le università, sia americane ma io direi anche italiane, preparano persone molto preparate, e siccome ne bastano poche, ma non ce ne vogliono un numero incredibilmente alto, queste persone incredibilmente alto producono delle nuove entità, dei nuovi laboratori, e stanno nascendo come i funghi. Diciamo, si parla di cantinari, sono cantinari importanti. Diciamo, negli Stati Uniti due o tre persone si mettono assieme, affittano una cantina e progettano nel laboratorio elettronico. Il fenomeno si sta verificando anche in Italia. Questi cantinari sono il nuovo modello di sviluppo dello sviluppo dell'elettronica, e le grandi aziende multinazionali guardano questo sviluppo. Naturalmente hanno la forza di schiacciarlo, ma hanno anche qualche rischio che un'altra azienda multinazionale non così grossa adotti questo modello per il suo sviluppo, quindi decida di non progettare più all'interno, di non pensare più all'interno, ma usare come forza di progettazione questa immensa, enorme forza inventiva e progettuale che si è instaurata in tutte le società, compresa la società italiana. Va bene, questo è il quadro, la didattica. È evidente che la didattica è uno sbocco per tutti. È uno sbocco per l'industria multinazionale, che ha bisogno in qualche modo di un mercato. È uno sbocco innovativo per queste piccole aziende fatte di poche persone, che per di più conoscono i docenti, che conoscono personalmente, hanno un mercato modestissimo, ma sicuramente costituiscono un esempio di come si produce, come si entra. Fanno un piccolo mercato, però è un mercato che si comunica, che compare alle fiere, che compare alle mostre, che compare ai convegni, è un mercato che viene visto da altri colleghi, da altri docenti, da altre università, da altre scuole, non è un mercato isolato. Cioè il fare mercato non è un atto puramente merceologico, è un atto rigorosamente comunicativo. È evidente che la didattica è diciamo la fiera di tutte le possibilità, perché coinvolge trasmissione dei dati, archiviazione dei dati, elaborazione dei dati, interfaccia uomo-macchina e competenza nelle discipline. La competenza nelle discipline, è evidente a tutti che lo sviluppo della ricerca scientifica in questi ultimi anni è stato terrificante, nel senso che grosso modo ogni 2-3 anni la conoscenza umana è superiore alla somma delle che l'umanità ha acquisito negli anni precedenti. Fra 2-3 anni ne sapremo di più di quello che l'umanità ha saputo in tutta la sua storia. Questo come ordine di grandezza. E non c'è assolutamente nessuna tendenza al rallentamento di questo fenomeno. Tutt'al più c'è un'evidenza di un aumento della qualità dello stesso. Naturalmente oggi ci sono dei problemi. Il professor Selye, che è premio Nobel per la medicina, che si è occupato dell'idea di stress, sapete, l'idea di stress è un'idea molto bella dal punto di vista, diciamo, scientifico, è nata più dalla linguistica che dalla medicina. Bene, l'idea di stress, il professor Selye alcuni anni fa, che per fare le sue ricerche si è costruito un archivio in cui ha riassunto in formule quasi matematiche articoli di biologia, bene, preso degli articoli di biologia, li faceva leggere da personale specializzato e scriveva delle formule semplici, diciamo al limite del matematico, in cui descriveva il significato dell'articolo di biologia, dell'esperimento. È stato preso un topo, è stato inoculato, è stato tagliato qualche cosa, le reazioni del topo sono state così e così, ha messo a punto una notazione speciale con cui ha riassunto 1,5 milioni di articoli. E naturalmente c'è qualcuno che lo sta mettendo in un archivio di calcolatore. Bene. Comunque lo stesso professor Selye diceva che la biologia morirà sotto i prodotti della propria decomposizione se non saprà integrare i risultati della propria ricerca. Il caso della biologia è emblematico, è importante, perché basta che pensiate alla medicina. Guardate la televisione, vi fanno vedere delle cose assolutamente spettacolose, però io il mal di denti non riesco a curarmelo, va bene? Cioè, diciamo, per tutta una serie di motivi complicati, bene, di cui in parte sono sicuramente un problema anche della capacità di gestire processi e quindi un problema di informatica, però è evidente che la capacità di integrare conoscenze oggi è molto modesta. 1 milione circa, 1 milione e più di ricercatori esistenti in biologia oggi integrano molto malamente la propria conoscenza. Quindi la tappa successiva dello sviluppo dell'umanità è quello che si chiama integrazione della conoscenza e ridurre i tempi, diciamo, in un certo settore, direi nello sviluppo dell'informatica e dell'elettronica, questo è quasi largamente verificato. Nella biologia, dove viceversa è terreno di, direi, di cultura informatica ancora modesta, anche se le esperienze di punta delle biologie sono tutt'altro che da trascurare anche dal punto di vista informatico, certamente questo non avviene ancora e i mezzi di comunicazione della conoscenza sono diversi. Però l'esistenza di grandi archivi dell'informazione oggi sta cambiando il panorama. Quindi il ricercatore biologico oggi, anche in Italia o in qualsiasi posto, può facilmente accedere ad archivi in cui ritrova i propri stessi lavori di ricerca e le proprie ricerche. Bene, ma questo oggi può sembrare un discorso che ha a che fare col ricercatore e non con la didattica. No, non è così. La preparazione di grandi archivi dell'informazione è esattamente la preparazione dei videodischi della conoscenza di domani. Questi videodischi non saranno più il solo patrimonio, diciamo, ancora oggi c'è l'utopia del grande archivio di informazione, come c'era l'utopia del grande calcolatore qualche anno fa. questa utopia rimarrà, perché i grandi calcolatori rimarranno, come rimarranno le grandi centrali telefoniche, anche se perfino questo oggi è messo in dubbio. Diciamo, forse le centrali telefoniche diventeranno sparpagliate per tutta la Terra, in modo tale che sia impossibile distruggere il sistema telefonico. Oggi le centrali telefoniche sono grandi, ma con la microminiaturizzazione è possibile di mettere un pezzo di centrale telefonica in ogni casa, in modo tale che la centrale telefonica sia in tutte le case. Quindi a questo punto distruggete quella casa, distruggete quella centrale telefonica, ma non il resto. Diciamo, cioè il sistema tende a riprodursi e a diventare indistruttibile. Bene. Questo lo sta facendo in molti modi. Uno di questi modi, appunto, è il videodisco. Il videodisco permette di avere nel suo interno un archivio enorme. Quindi immaginate il ricercatore di storia. Oggi il ricercatore di storia della conoscenza chi è? È una persona che di solito è mal pagata. Esistono, sono tanti che credono nella necessità di fare ricerca. Non hai soldi per accedere ai grandi archivi di informazione, ma i grandi archivi di informazioni esistono. Bene. Naturalmente partecipa, i grandi archivi sono diventati una specie di mercato della conoscenza, questo mercato della conoscenza è molto attivo, sta diventando uno dei mercati più fiorenti, bene, così come il mercato della trasmissione della conoscenza, la didattica. Oggi sul pianeta una persona su 8 si occupano di didattica, quindi, ed è l'industria che ha il massimo aumento di profitto rispetto a tutte le industrie complessivamente, cioè l'industria della didattica è la più fiorente, diciamo, perché lo sviluppo tecnologico richiede maggiori conoscenze. Queste maggiori conoscenze incentivano questo tipo di sviluppo. Ci renderemo conto fra un po' se questo processo continua ed è destinato a portarci tutti a insegnare, oppure se non sarà così. Questo non è facile da prevedere. Siamo di fronte certamente a un aumento del consumo, del commercio, della conoscenza e quindi della didattica. Però c'è anche un problema. La didattica, l'elettronica, la microelettronica rende possibile un modo diverso di insegnare, un modo nuovo, completamente differente. Comunque vi dicevo, i grandi archivi di informazione oggi sono rari. Negli Stati Uniti sono probabilmente alcune migliaia i grandi archivi di informazioni. Esiste un grande archivio che si occupa ad esempio del maltrattamento dei bambini, tanto per avere un'idea, in cui sono raccolte tutte le informazioni che un certo gruppo di ricercatori molto agguerrito è stato capace di raccogliere sul maltrattamento dei bambini. Quindi quando voi volete capire qualche cosa, se siete un ricercatore sociologico sul maltrattamento dei bambini, accedete a quell'archivio e ci sono tutte le informazioni che sono state raccolte su giornali americani, italiani, russi e così via di seguito. Questo oggi è una cosa che si accede via telefono. Domani probabilmente, diciamo, potreste avere un archivio e distribuirlo agli studenti di una disciplina sociologica, in modo tale che con il loro elaboratore personale, quello che tengono a casa, ricevano anche il disco di quel videodisco, così come oggi si riceve il disco musicale o il videodisco del filmetto, va bene, o del film interessante o no, diciamo, potranno ricevere il videodisco con sulla conoscenza tutta di un certo settore fino a una certa data, e per telefono riceveranno solamente gli aggiornamenti, le ulteriori, diciamo, informazioni. Questa è l'immagine. Il videodisco non è ancora una realtà, premessa maggiore, io ne ho parlato per parlarvi di domani, è una realtà nei laboratori tecnologici, nei laboratori giapponesi, nei laboratori europei e negli laboratori americani. Questa volta l'Europa non è seconda, direi, a nessuno, perché i maggiori sviluppi sul videodisco sono nati in Europa. I giapponesi naturalmente sono la massima preoccupazione diciamo, sia dell'industria europea che dell'industria americana, se non altro per una ragione molto semplice: la qualità dei prodotti giapponesi è altissima perché il clima di lavoro, diciamo, è completamente differente, e la qualità è un fatto culturale più che tecnologico, ed è evidente che è impossibile ottenere buona qualità semplicemente come fattore tecnologico. La qualità, diciamo, un certo tipo di cultura si è convinta che la qualità è ottenibile solamente come fatto culturale piuttosto che come fattore tecnologico. Bene, allora, adesso andiamo al sodo. Bene. Didattica. Didattica in questo ambiente tecnologico. Didattica per chi? Bene. Didattica si fa nelle scuole elementari, si fa prima delle scuole elementari. Bene. Si fa i bambini, si fa gli adulti, si fa i professionisti, si fa a quelli che non hanno nessuna professione, si fa in ambienti, a casa, a scuola, per la strada. Diciamo, didattica è un'attività talmente complessa. Tutti questi aspetti della didattica sono oggi influenzati dalla microelettronica e dall'informatica. Negli ospedali statunitensi, molti ospedali statunitensi esistono per i bambini che non sanno parlare dei mezzi di comunicazione elettronica via televisione in cui toccano le immagini col dito. Nelle scuole elementari, gli laboratori negli Stati Uniti, nell'insegnamento e nella didattica, sono diventati una realtà molto frequente. Il 16% delle scuole statunitensi utilizza micro e laboratori nella didattica. Semplicemente fa giocare direttamente le persone con gli elaboratori, diciamo. Quindi è un fenomeno che prima aveva qualche resistenza, è stato usato ai primi tempi certe tecniche che hanno a che fare con questa, diciamo, visione un po' comportamentista o comportamentale dell'insegnamento, diciamo il punto di vista skinneriano, che non dico che stia per essere abbandonato, ma diciamo certamente trova delle enormi resistenze fra tutti, sia coloro che devono produrre didattica sia coloro che la devono usare. E il punto è molto semplice: fare una didattica di istruzione programmata. Voi sapete cos'è l'istruzione programmata? È una cosa che rende, diciamo, l'uomo simile a una macchina. Bene. Più che educarlo, più che istruirlo a qualche cosa, diciamo, cerca di farlo andare a step successivi, senza dargli il senso complessivo e senza abituarlo a capire l'astrazione. Diciamo, questo è un po' il limite di questa cosa. Questa tecnica, diciamo, è, direi, definitivamente sotto critica. La ragione principale è che il costo, in parte, il costo di preparazione di quel materiale è altissimo. E l'efficienza didattica sembra piuttosto modesta, per cui si usano tecniche tutte diverse. Diciamo, qui si entra in un mare immenso, tutto di tipo sperimentale, e oggi è difficile avere un'immagine accurata. Si parla di didattica underground. Diciamo che un modo per fare didattica, un modo per imparare, non è quello di leggere un libro, ad esempio, ma è quello di scrivere un libro. Bene? È certamente più efficiente scrivere un libro che non leggere uno per fare didattica. Ebbene, la didattica con gli elaboratori assomiglia più a questa che a un'altra didattica. Negli Stati Uniti, che sono da prendere certamente come buon punto di riferimento, il numero di studenti che scrive corsi con elaboratori è altissimo. Questi corsi non sono letti e non sono guardati da nessuno, o sono guardati solamente dagli amici e da piccoli gruppi ristretti. So what? Cosa importa? L'importante è che loro abbiano scritto quel corso e che abbiano fatto la fatica di rendersi conto quali sono le difficoltà di scrivere un corso. Cioè hanno fatto didattica facendo didattica, non subendo didattica. Quindi queste persone stanno mettendo a punto una immensa varietà di mezzi di comunicazione. E anche qui ovviamente c'è una novità. Voi sapete che esiste questa enorme distinzione non così importante e in futuro sarà destinata ad essere sostanzialmente abolita, fra quella cosa che si chiama hardware e si chiama software. Bene? Ed esiste, diciamo, il software che cos'è? È il modo con cui si programmano gli elaboratori. Bene? Cioè sono i dati, se volete, sono le informazioni. Nel caso dei corsi questo software si chiama anche teachware, diciamo, cioè il materiale didattico. Il materiale didattico sta assumendo delle forme incredibili, bene? Ma il materiale didattico aveva un limite, bene? Che il materiale didattico era adatto alla macchina 1 piuttosto che alla macchina 2, piuttosto che alla macchina 3. Diciamo che il materiale didattico non poteva circolare, bene? È come se ci fossero state delle materie prime all'epoca dei grandi commerci delle Indie, va bene, senza che esistessero le navi su cui far circolare il materiale didattico. Anche qui il panorama è in cambiamento, sempre ad opera culturale di piccoli gruppi di persone e questa volta sostenuti da una multinazionale, bene, la Bell Telephone. Bene. Cioè che sta nascendo, diciamo, un mercato dell'informatica, un mercato del teachware, un mercato del software, soprattutto, ad opera del fatto che esiste la possibilità su macchine di usare materiale didattico e programmi su macchine molto differenti. Bene. Mentre prima questo era impossibile, in questi ultimi 2 anni è apparso evidente che quasi tutte le università americane e moltissime delle scuole americane si stanno equipaggiando con dei sistemi operativi, si chiamano così, non dei linguaggi di programmazione, sistemi operativi, bene, che permettono la comunicazione di certa conoscenza. Bene. Il risultato qual è? Il risultato è che il software finalmente ha un mercato. Avendo un mercato, il costo del software ha già una, perfino quello industriale, ha già una forte evidenza, non più un aumento dei costi come si pensava che sarebbe continuato a aumentare, ma viceversa, comincia a ridursi il costo e il software di qualità costa poco. Costa poco, questo è un fatto importante. E quindi stanno nascendo, diciamo, quelli che sono i computer shop, sapete, i negozi per computer, a Milano ce ne sono, non so, 7, 8, 10, negli Stati Uniti sono oltre, certamente oltre i 5.000, questo era un dato che si riferiva qualche anno fa, 5.000 era 5 anni fa, adesso quanti siano non ne ho la più pallida idea, però i mercati, i negozi di computer stanno diventando negozi di software per computer e di teachware, cioè di materiale che serve alla didattica. Bene? Naturalmente, ripeto, è usato in moltissimi modi, si parla di computer managed instruction, computer aided instruction, di drill and practice, di gaming, di business gaming, di simulazione, simulation, eccetera. Sono tutti termini. Verso quello che si chiama una specie di Dynabook. Qui chiamato qualche volta libro elettronico. Dynabook, questa è un'utopia, è un libro elettronico, una cosa come questa che insegnerà la geometria, la insegna direttamente, sarà capace di dimostrare teoremi, bene, sarà capace di mostrare esempi, di fare domande, eccetera. Cioè, quindi, quella che era la computer assisted instruction, quella che era, è diventata semplicemente il modo con cui gli elaboratori, i libri diventano elettronici. Diventano elettronici e diventano reattivi. I libri parleranno e saranno anche capaci di riconoscere la voce. Oggi riconoscono pochi, ma libri, diciamo libri, e piccoli elaboratori capaci di riconoscere alcune centinaia o alcune migliaia di parole sono una realtà commerciale, non sono una realtà ipotetica di laboratorio. Quindi, dicevo, si va verso un'altra forma di utopia che è il libro elettronico. Libro che sarà in qualche modo personalizzato, sarà adattato alle discipline. Bene, questa è più o meno la situazione. Naturalmente tutto questo non ha toccato minimamente il significato di un certo tipo di educazione, questa volta, non di didattica, che è legato allo sviluppo dell'informatica. E qui qualche parola va spesa. Diciamo, oggi la didattica dell'informatica si fa soprattutto nell'informatica, ma imparare informatica significa veramente imparare un mestiere o significa imparare qualcos'altro? Questa è la domanda chiave. Diciamo, cosa significa studiare l'informatica o usare un elaboratore elettronico? Beh, diciamo, la cosa può essere vista da moltissimi punti di vista. È chiaro che se entriamo nel dettaglio non solo ci vuole una sera, ci vuole un anno e forse non ci riusciremo mai. Se invece guardiamo la cosa a livelli di astrazione molto alta, allora forse possiamo capire qualche cosa. Allora, cominciamo a guardare una persona che usa un elaboratore. Siamo lì, l'elaboratore piccolo o grande questa volta non ha nessuna importanza, bene? A grandi linee, bene, comunque è un elaboratore, la persona fa un dialogo uomo-macchina. La cosa che osserviamo è che lui tenta di risolvere un problema. Però questo trascuriamolo per il momento, capiremo di più. Però vediamo che sbaglia subito, bene? Cioè il dato più importante dell'educazione all'informatica è il fatto, il più importante di tutto, quello più emergente, al di sopra del quale c'è solo il nome, se si entra un minimo di dettaglio, è il fatto che si sbaglia. Bene? E che si sbaglia e che le persone, nonostante facciano degli errori, continuano, migliorano i propri errori finché fanno una cosa che è più o meno quella che vogliono. Naturalmente, diciamo, probabilmente hanno sbagliato ancora, cioè è un processo di continuo rinnovamento dell'errore. E questo è un fatto importante, perché rende accettabile, e questo i docenti di informatica lo sanno molto bene, sanno che è impossibile non sbagliare. Questo è il teorema, è impossibile non sbagliare. Sanno anche che le persone hanno buona disponibilità e che di solito migliorano la loro soluzione del loro problema. Quindi una cosa importante è che si sbaglia, ma che non è così importante, diciamo, l'errore, e questo è il dato educativo migliore. Naturalmente cosa significhi questo dal punto di vista educativo umano è difficile dire. Diciamo, il fatto che io impari a sapere che sbaglio spesso significa che accetto i suoi errori. Questo è un problema grosso, e questo qui potrà essere misurato solamente fra qualche anno, se qualcuno vuole misurarlo, però per il momento è difficile fare un'estrapolazione. Diciamo, ci si può solo augurare che, diciamo, l'accettabilità agli errori da parte di se stessi nei confronti di un meccanismo permetta di accettare anche gli errori del prossimo. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è più complicato, diciamo, però è sempre al massimo livello di astrazione ed è indipendente dall'uso che si fa degli elaboratori, sempre scendendo nel dettaglio. E lo si vede questo: tutte le volte che c'è un elaboratore c'è un problema. Questo problema sempre ha a che fare con umani, bene? Ha sempre a che fare con un altro uomo. Non ha a che fare con un meccanismo, c'è sempre qualcuno che dice: guarda, che io ho bisogno di risolvere questo e questo problema. Quindi c'è sempre un perché si deve fare una cosa, bene? C'è sempre un perché. Poi c'è cosa si deve fare, e alla fine c'è la programmazione dell'elaboratore, che è un modo di fare le cose, cioè un come si fa, perché, cosa, come. Un buon programmatore, una persona che abbia acquisito la capacità di risolvere problemi, conosce bene queste tre entità e le sa usare sempre. Dopo un certo periodo di training sa astrarre dal fatto che lui usa l'elaboratore. Quindi una persona che è addestrata, anche banalmente addestrata all'uso dell'informatica, e non educata nel senso che certi educatori vogliono farci credere, ma semplicemente una persona che si è abituata a usare questi mezzi in un modo normale, dopo un po' acquisisce la capacità di astrarre indipendentemente dall'elaboratore e sa distinguere sempre questi tre livelli, il perché, dal cosa, dal come, che vi garantisco non è sempre facile. Cioè acquisisce quella che si chiama una system thinking o problem solving, sono quasi la stessa cosa, attitudine, la capacità di pensare per sistemi o la capacità di risolvere problemi. Questo è l'aspetto. Naturalmente poi ci sono gli aspetti disciplinari specifici, questi sono pochi rilevanti per le ragioni che vanno capite, che vi avevo, diciamo, promesso di dirvi. I prodotti dell'informatica sono diventati semplici da usare. Perché sono diventati semplici? Perché il mercato deve essere mantenuto ampio, e ve l'ho detto il perché, perché i costi si riducono. Quindi cosa ci aspettiamo sul futuro? Ci aspettiamo dei prodotti che siano relativamente facili da usare, che possa usare sostanzialmente chiunque, bene, con poca fatica, in un linguaggio non certamente linguaggio naturale, ma non molto distante, eventualmente direttamente parlando con il meccanismo o indicando gli oggetti con dito. Una recente linea di tendenza è che non si deve dare il nome alle cose nei calcolatori. Dare il nome alle cose complica molto il dialogo, è meglio indicarle. Allora la recente tendenza più importante per lo sviluppo della didattica, e che permetterà di realizzare gli elaboratori per la didattica veramente facili da impiegare, e in cui i bambini di 12 anni scrivono programmi che nessun professionista, se non eccezionale, è capace di scrivere, sono proprio elaboratori realizzati con questa tendenza. Non dare nome agli oggetti, ma indicarli col dito. Quindi gli oggetti vengono costruiti su un mondo, su uno schermo, sono oggetti animati che si toccano, le regole dell'animazione gliele ha dati il bambino, bene, li tocca, li sposta, fa delle trasformazioni indicando le trasformazioni con esempi col dito, e la macchina, diciamo, aiuta i bambini a scrivere questi programmi. Queste cose si fanno su macchine che oggi sono sul mercato, da pochissimi giorni, diciamo, sono sul mercato ad opera di una grande multinazionale, e diciamo arriveranno in Italia in 2 o 3 anni, prima di 2 o 3 anni non le vedremo, ma sono state annunciate alla Computer Conference la settimana scorsa a Chicago. Queste macchine sono le macchine in cui la comunicazione uomo-macchina è più diretta, non si usa quasi più la tastiera, quella cosa, si usa semplicemente toccare, non proprio col dito, con un dispositivo ancora più sofisticato ma molto semplice da usare. La comunicazione ovviamente a colori, i linguaggi di programmazione sono stati studiati per i bambini, ma naturalmente sono mezzi che vanno benissimo nell'automazione d'ufficio. Quindi questa volta è successa la rovescia. che strumenti pensati per i bambini vanno nell'ufficio. Dunque, ancora un pochino. È chiaro che questo non elimina la necessità dell'uomo, diciamo, non elimina assolutamente, perché, ripeto, la comunicazione dal punto di vista umano, i mezzi di calcolo non sono altro quelli che il professor Petri, che è un po' il filosofo di certe cose, dice sono media. Gli elaboratori non sono altro, non macchine super intelligenti, che non è vero, bene, non velocissimi strumenti di calcolo, che è vero ma non ha molta importanza, non serve molto, non unicamente mezzi di trasmissione dei dati, ma semplicemente media, mass media. Questo dal punto di vista umano è certamente un dato reale, il che significa che la comunicazione umana semplicemente, diciamo, acquisisse una nuova possibilità. Da quando l'umanità esiste, la velocità di comunicazione umana è aumentata terribilmente, questo in tutte le epoche, e l'aumento della velocità di comunicazione umana con vari trucchi è esponenziale. Oggi evidentemente l'aumento della complessità sociale richiede probabilmente un nuovo salto nella velocità di comunicazione umana, diciamo, e questo naturalmente porrà degli enormi problemi su quella che si chiama interfaccia, che vi dicevo, la ricerca di domani. La ricerca di domani potrebbe anche portare alla sorpresa della comunicazione uomo-macchina diretta, non più mediata dalla voce, non mediata da una tastiera, ma mediata ad esempio dai potenziali nervosi direttamente, cosa che è stata già sperimentata naturalmente con successo più o meno limitato, questo non ha molta importanza, ma che è certamente indispensabile per guidare dei velivoli militari ad altissima velocità, dove i tempi di reazione, forse però non sarà necessario, diciamo, fare questo, perché le macchinette che si usano nei bar stanno già addestrandoci ad aumentare la velocità dei riflessi. Vabbè, diciamo, questo è il punto di vista umano. Se poi il punto di vista sia quello del silicio, che anziché considerare noi il silicio come media fra gli umani, in verità andremo verso un'evoluzione in cui gli umani sono i media della comunicazione fra pezzi di silicio, questo è un problema che io lascio aperto e che non voglio chiudere. Ringraziamo Gianni Degli Antoni per questa, direi, ampia introduzione ai problemi. E purtroppo non abbiamo moltissimo tempo, perché qui, insomma, gli orari sono, insomma, sono di tipo conventuale, quindi, e d'altra parte l'ambiente condiziona anche la comunicazione in questo senso. Direi che sì, abbiamo appena poco più di una mezz'oretta per un veloce dibattito, insomma, perché magari vedremo le prossime sere se sarà possibile avviare trattative con il potere di questo posto. Allora vi prego di porre le vostre domande, di fare le vostre osservazioni, se ne avete. Ecco, se la folla che è fuori vuole accomodarsi anche dentro, un po' di spazio c'è. Noi non prevedevamo, come sempre, quindi abbiamo messo il tavolo qua, ma sbagliamo sempre previsioni. Sì. Comunque ci potete aggirare. Io avevo fatto alcune domande pratiche da tanto tempo. Cioè, la prima più che altro è una considerazione che però, cioè, è stata magari enunciata, però in qualche modo mi spaventa. Ed è il... Cioè, la comunicazione appunto con il collaboratore, con queste reti elettroniche, che sì, astrae dal tempo, astrae dallo spazio, però ormai astrae anche dal significato. Cioè, questo segno, radice quadrata, ce lo siamo progressivamente dimenticato, ormai chi lo sapeva, per chi praticamente è arrivato dopo di me, probabilmente subito dopo, neanche ha idea quale sia praticamente il significato, il codice di questo significato. È un segno con una forma strana che sta in un pulsante che dà un determinato risultato collegato tutto a una logica generale. Cioè, qui in questo esempio, però, secondo me è generalizzabile, non c'è anche una perdita del significato, cioè con questa rete, con questa astrazione continua, cioè esiste una perdita del significato, insomma, cioè, poi ricollegata anche con tutto il resto, con un dibattito aperto non da certo da oggi, no? Poi, ecco, erano, la tua carrellata è stata secondo me molto molto bella, addirittura, però non lo so, cioè sarà che perché in parte lavoro appunto in quella che è la periferia dell'impero, però cioè, non lavoro nel Dursa, sì, però di fatto appunto dalla periferia vedo un po' come funzionano certe cose. E a me mi pare che alcune, pur essendo corrette le pronunciazioni come tendenze e come propositi, noto che queste tendenze e questi propositi continuano, almeno in periferia, parlo così, nei posti di lavoro, no? Continuano molte volte a cozzare con delle realtà che, cioè, se non altro si dimostrano abbastanza ostinate. Per cui quando tu mi parli di banche, quindi tendenza di allargamento della comunicazione e della conoscenza, io per esempio vedo specializzazione, iperspecializzazione, difficoltà di conoscenze orizzontali che tu hai enumerato, hai fatto un esempio nella biologia, però ritengo che sia in molti campi della scienza questa tendenza non è sufficientemente controbilanciata da questo uso di banche che molto spesso diventano delle banche diciamo molto specializzate con difficoltà di accesso, se non altro, no? Parlo cioè con professore, ma anche perché poi dopo si rilascia sul discorso di come viene gestito, di come viene messo dentro il dato, come viene poi ricatturato, ritirato fuori, cioè le chiavi di entrata e di uscita che sono sicuramente appartengono a una sfera fuori, d'accordo, al limite in una banca ci può essere anche tutto, però se non ho io la capacità o la mentalità di saper accedere, di saper prendere informazioni, tanti saluti, io della banca mi prendo sempre quelle. È l'effetto troppa grazia a Sant'Antonio. Grazie. E poi un'altra azione che vedo, cioè il dispersettamento di questa rete di conoscenza, e quello che tu dicevi, cioè le persone ormai che ci lavora sai il perché, sai il cosa e sai il come del problema, no? questo conoscenza del problema, che cioè, può darsi questo, non so, nell'università o dove effettivamente questa cosa funziona, però molto spesso io vedo uno spezzettamento o se vuoi una riproduzione del sapere, della conoscenza, della decisione verticale, per cui il perché, dal perché si passa alla cosa senza nessun problema di ritorno, insomma, cioè molte volte un problema dall'alto viene trasmesso in basso fino al programmatore senza che questi abbia la minima idea di che cosa poi serva, e la controprova è che molto spesso queste informazioni poi vengono completamente stralunate, insomma, non hanno nessuna, cioè uno chiede una cosa e si risponde ad un'altra cosa. Dunque, io credo che tu abbia toccato con molta chiarezza quelli che sono i punti principali. Sulla perdita di significato, il caso della radice quadrata, diciamo, andrebbe analizzato a fondo, ed è vero che non è un caso isolato, è il caso, diciamo. Cosa significa del laboratore oggi per l'ingegnere, supponiamo, per il progettista, per il fisico, per il biologo, che si trova un certo numero di ricette da cucina di cui lui non percepisce assolutamente la procedura nell'interno. Bene. Il caso della radice quadrata è un esempio chiaro. È chiaro che se a te non interessa nulla sulla radice quadrata, non sai né cosa significa né come si calcola, il perché in questo caso è irrilevante. Bene. Ma perché avviene quello? Perché non hai interesse specifico nel perché. Bene. Allora non sai bene cosa significa e non sai come si calcola. Lo stesso vale il ricercatore biologo che vuole, diciamo, usare dei mezzi della statistica. Lui deve sapere bene cosa significa la statistica, non come si calcolano quei tal parametri di cui lui ha bisogno. è chiaro che corre il rischio di usare in modo alienato sia il cosa che il come. Il perché spesso non lo sa perché lavora lì, diciamo, e alla fine dei conti riproduce quel fenomeno che tu segnalavi, cioè che è quella della divisione del lavoro, diciamo. L'uso dell'informatica in un certo senso è semplicemente uno strumento di trasferire alla macchina grosso modo il come si risolve un problema. Il cosa non viene in nessun modo trasferito, non è trasferibile. Quindi questo è un problema di consapevolezza dell'utente, ma questo è un problema di consapevolezza che è indipendente dallo strumento. Certo, esiste questo problema. L'informatica, come tutte le tecnologie, come tutti i media, si può usare per trasmettere A, per trasmettere B, per usarla nel modo 1 e nel modo 2. Io credo che questo sia un problema di educazione serissimo, bene, quindi importantissimo, quindi vitale, che diciamo, è certamente messo in evidenza da alcuni problemi, ad esempio connessi con i reattori nucleari. Diciamo, i reattori e, diciamo, che il problema dei reattori nucleari importanti anche nel contesto dell'istruzione. Voi sapete che ci sono stati rischi di esplosioni di reattori nucleari. La storia del perché, in particolare il reattore di Gettysburg, ha portato quasi a un incidente è stata studiata nel più infinitesimo dettaglio nei giornali scientifici per cercare di capire se era un problema tecnico, c'era un elaboratore ovviamente, e in verità il sistema di Gettysburg non è saltato a dispetto degli errori umani. Questo non vuol dire che l'elaboratore ha salvato la situazione, no. Vuol dire semplicemente che è stato sottovalutato il significato dell'istruzione per attività modeste. Il reattore di Gettysburg sicuramente salterà un giorno o l'altro, in poche parole, non dico quello, ma un qualche reattore salterà, non perché il calcolatore era sbagliato, perché l'operatore non sa intervenire nei casi eccezionali. Il reattore di Gettysburg non è saltato perché c'era una lampadina rossa coperta da un cartello appiccicato con lo scotch. Nessuno ha visto quella lampadina, nessuno si ricordava che ci fosse, l'elaboratore acceso correttamente, c'erano due guasti, l'elaboratore sapeva perfettamente come comportarsi. Però siccome nessuno sapeva l'esistenza di quella lampadina, nonostante due ore affannose, sono riusciti quasi a far saltare il reattore, i tecnici, gli esperti, che non sapevano più come era fatto questo sistema. Attenzione, è un importante evento il reattore di Gettysburg, perché ha cambiato la cultura, ha messo in evidenza che i grandi sistemi hanno un rischio, sono molto sicuri mediamente, raramente sono rischiosissimi. Quindi questo ha portato un certo tipo di cambiamento, per cui occorre aumentare il livello di cultura verso una preparazione più profonda e quindi a fare un lavoro, se volete, più modesto. Questa è la contraddizione di oggi. La contraddizione di oggi. E si riferisce anche al discorso sulla divisione del lavoro, diciamo, rispetto al programmatore. Lì la divisione del lavoro è chiarissima. Ci si mette una persona che occuparsi del cosa. Ci si mette una persona per occuparsi del perché, una del cosa e una del come. Uno si chiama il manager, l'altro si chiama l'analista, l'altro si chiama il programmatore. Queste sono le divisioni, diciamo, è chiarissima, cioè si separa nettamente. È assolutamente evidente a tutti questa volta che quel tipo di rischio ha prodotto aumenti di costi. Siccome l'informatica sta andando verso i bassi costi, quel tipo di modo di organizzazione del lavoro verrà modificato. È stata l'organizzazione preminente nel campo dello sviluppo dell'informatica, è l'organizzazione che sta per essere demolita, e questa volta è stata demolita dalle università. Bene? E verrà completamente, naturalmente, l'altra faccia della medaglia di quella distruzione, di quella forma di organizzazione del lavoro, si chiama cassa di integrazione in Italia. Cassa di integrazione che arriverà entro un certo numero di anni per un certo numero di addetti dell'informatica che sono stati abituati a dividere il lavoro in termini di cosa, come e perché. D'altra, con una comunicazione molto blanda, dice devi fare questo cosa, fallo, va bene? Però senza perdendo un pochettino di vista le cose. Sulla questione della dimensione delle banche, è evidente che, diciamo, oggi si può dire proprio troppa grazia a Sant'Antonio, nel senso che quando uno, diciamo, io ho visto la reazione di alcuni miei colleghi di medicina che cercavano dei lavori su certe cose chiamate malformazioni, bene, e loro credevano di poter fare una banca perché avevano 20-30 lavori in mano. Fatto una ricerca sui laboratori, nel giro di 5 minuti sono stati trovati esattamente 17.000 lavori e la cosa non è rara. Va bene? Un altro ricercatore ha fatto una ricerca, diciamo, di un certo numero di ricerche sulla didattica della matematica. Del 78 ad oggi una banca europea ha collezionato 150.000 lavori di sue ricerche sulla didattica della matematica. È evidente che oggi il problema di usare queste cose è un problema difficile. È esattamente uguale a quello dell'esplorazione di un continente completamente incognito. Ed è anche evidente che oggi non si sa bene quei pesi pigliare, perché c'è chi ha paura di tutto ciò. Ha paura il dirigente, ha paura il professore, ha paura il professionista, ha paura eccetera. Oggi c'è semplicemente un certo numero di persone che hanno cominciato a far mercato di questa conoscenza. Giusto o sbagliato che sia, si chiama trasferimento del know-how, si fa abbastanza facilmente, non è difficilissimo da realizzare come tipo di mestiere. E è un mestiere tutto da scoprire, perché in questi archivi ci sono delle persone che hanno semplicemente brutalmente accumulato, non dico tutto perché è molto difficile, ma certamente hanno accumulato molto di più di quello che una normale persona poteva accumulare usando qualsiasi mezzo a sua disposizione. Bene. Questo significa che va imparata questa questione degli archivi ed è un mestiere che non si sa ancora fare. Però anche lì il discorso è complicato, perché ci sono già in industrie dove alla mattina 7 persone tutte le mattine guardano certi archivi tecnologici per vedere i prodotti innovativi che sono, diciamo, in una forma di mercato internazionale completamente diverso dal solito. Questo avviene anche in Italia, ci sono delle reti in cui si commercializza l'innovazione tecnologica, reti di laboratorio. Tutte le mattine ci sono un certo numero di persone che guardano le ultime novità. C'è un nuovo mestiere, è il mestiere di guardare nella conoscenza. Questo naturalmente fa sì che ci sia una nuova divisione del lavoro in atto, per adesso, e per adesso sarà divisione del lavoro finché ci si accorgerà che sarà nociva. Adesso è la divisione del lavoro fra colui che scopre l'informazione e l'innovazione e colui che la utilizza. Bene. Prima le cose erano diverse, cioè nessuno scopriva l'innovazione, semplicemente veniva riscoperto il secchio ad ogni piede spinto. Quindi da questo punto di vista rispetto all'innovazione la situazione è migliorata. Naturalmente ha creato e sta creando nuove figure in ambito aziendale dove queste cose sono arrivate in pochissimi posti, premessa maggiore. Quindi io ho cercato di farvi vedere il punto dell'innovazione. Punto dell'innovazione che significa certamente una ridiscussione completa dell'organizzazione del lavoro, una ridiscussione completa del significato, quindi delle figure classiche, questo non immediatamente, ma in un tempo abbastanza prossimo, proprio sulla base della didattica. I prodotti più recenti, questo mi sono dimenticato di dirlo, diciamo anche piccoli, hanno tutti un sistema di istruzione che spiega come si usa. Diciamo quindi non si fa più ricorso molto a manuali, si fa ricorso direttamente allo stesso oggetto che si autospiega. È diventato quindi, diciamo, ciascuno di questi strumenti, per cui anche nella computer-aided design, nella progettazione automatica, il livello di competenza è decresciuto. Naturalmente questo fa il paio sui limiti della dimensione umana, cioè, diciamo, questi aspetti possono sembrare anche negativi, ma attenzione, queste cose esistono, quindi per l'architetto, per l'ingegnere, i tempi di progettazione sono diventati una cosa importante, la riduzione dei costi di progettazione è una cosa importante, quindi questi sistemi debbono essere facili. Naturalmente ciò comporta qualche rischio. Il problema questa volta è sulla preparazione, quindi il rischio gravissimo che nel caso del reattore di Gettysburg è stato corso da un'intera nazione, gli Stati Uniti, sarà corso da tutti se si confonde la facilità d'uso con l'incompetenza. Cioè il fatto che i mezzi di calcolo siano diventati facili da usare a certi livelli implica che lo sforzo della preparazione deve essere aumentato e che l'atteggiamento culturale di accettazione di queste cose vada cambiato. Vada cambiato nel senso di un lavoro diciamo, più responsabilizzato pur essendo di livello più modesto, il che significa che eccezionalmente ciascuno di noi sarà usato un massimo. Come questo problema possa essere risolto non lo so. Io ho visto in alcune aziende in cui viene risolto grosso modo facendo sì che le persone, oltre a fare un lavoro di tipo banale, come viene giudicato erroneamente, bene, erroneamente, perché è chiaro che questo qui, diciamo, è un giudizio che modifica la società, il giudicare banale una cosa è una cosa che poi ha le conseguenze nei rapporti di lavoro, eccetera. Comunque, per far accettare questo lavoro banale viene pagata l'altra faccia della medaglia e viene fatta fare un po' di ricerca ogni tanto. Questo può voler dire che accanto al lavoro banale faremo tutti un po' ricercatori. Questa è una possibile soluzione. Il lavoro banale non credo che sia evitabile. Naturalmente si può sempre ricorrere alla categoria, due categorie di cittadini, la categoria di serie A che fa i lavori interessanti e la categoria di serie B che fa i lavori banali. Ecco, questa è l'altra soluzione, diciamo. Io personalmente preferisco la precedente. Penso soprattutto alla mia esperienza, una didattica che non si limita ad elencare i modelli matematici, ma cerca di individuare la genesi, il grado di corrispondenza col reale, il punto di vista nell'osservazione finalizzata che li determina completamente. Questa didattica continua a lasciare nello studente la sensazione, in assenza di alternative proposte, dell'univocità e necessità dello sviluppo scientifico e sociale dato. Cosa che in fin dei conti è quanto da sempre ha inteso fare la borghesia nella scuola. Per la ricerca il problema è ancora più complesso. L'indebolirsi e frantumarsi del punto di vista antagonista a quello dominante lascia chi vuole fare ricerca, soprattutto nel campo delle scienze fisiche e matematiche, nella frustrante alternativa tra un contraddittorio non fare scienza per poter continuare a riaffermare la non univocità del suo sviluppo, oppure farla, ma necessariamente accettando l'unico punto di vista attualmente capace di esprimersi. Ecco, infatti, le altre considerazioni, leggevo questo passo per fare questo tipo di considerazione. Cioè, un'istituzione che oggi sia finalizzata alla didattica attuale, quella che tutti rappresenti, e peraltro, sottolineo, sia democratica, questo va a tutto onore rispetto ad altre istituzioni che hanno operato qui a Milano, campo dell'informatica fino a poco tempo addietro e continua a operare. Come può porsi rispetto al problema della didattica e quindi di un certo sviluppo scientifico da un punto di vista che sia anche politico? Spiego meglio, rispetto a quelle tre prospettive che ponevi tu prima, cioè il per chi, il come e il cosa. Sicuramente si è fatta piena luce sullo strumento di lavoro. Adesso credo che sia effettivamente muoversi sul terreno ideologico, pensare con dei discorsi di poter condizionare questo sviluppo. Ecco, io sono ancora di quelli convinti però che si possa, prendendo certe posizioni, condizionarne ancora l'uso. E qui gli esempi potrebbero anche essere numerosi, adesso non vorrei dilungarmi, mi piaceva sentire la tua opinione, però volendo parlare di cose molto attuali, per esempio, dando un articolo della Manacorda su questo tema, ecco, per esempio il lavoro d'ufficio è un tipico esempio di un certo tipo di automazione che può essere utilizzata ai fini ricompositivi di certe mansioni del lavoro d'ufficio, come si diceva prima, a fini di ulteriore parcializzazione. Ecco, qui, ok, si può guardare, però credo che non sia tutto determinato. Cioè, o lasciare questi discorsi al mondo politico che ormai sta dilagando su queste informatiche e secondo me pensare di poter affrontare questi discorsi da un punto di vista esclusivamente politico e non tecnico è un altro tipo di falsa ideologia. Ecco, è un tema di quelli, diciamo, da far tremare i polsi, quindi diciamo mi stanno tremando. E io cercando di dare un'immagine di quello che sta avvenendo, è impossibile che non abbia introdotto un punto di vista. io sono parte di questo processo, diciamo, quindi dico, le forze in gioco sullo sviluppo dell'informatica e sullo sviluppo della didattica sono il mercato, la scuola, il potere politico, il potere amministrativo, eccetera. Bene. Quindi dico, tutti questi, tutte sono forze reali che condizionano questo tipo di sviluppo. Bene. Sono tutte presenti, nessuna è assente. È evidente che io ho cercato di dare un punto di vista, ma naturalmente è il punto di vista da cui io guardo, non è il modello assoluto di crescita di questa cosa. Per cui se voi andate ad ascoltare altre persone, non sorprendetevi se sentite un punto di vista diverso, non è che il loro punto di vista sia più giusto del mio e il mio sia più giusto del loro, è un punto di vista. Naturalmente, diciamo, tutto ciò potrebbe sembrare contraddittorio se fosse univocamente determinato il modello di sviluppo rispetto al futuro, cioè se fosse chiaro esattamente in che direzione andiamo. Dico, tutte le domande sue e le domande tue collimano il fatto a far capire che le forze in gioco sono imponenti, bene, imponenti, e che piccoli cambiamenti determinano grossi passi nell'evoluzione. Questo, in una certa misura, io credo che sia una delle più striscianti prospettive della ricerca scientifica, sia quella di demolire il determinismo in senso perlomeno sociale, ma probabilmente anche in senso fisico. Cioè, questo un po' è Prigozhin, il massimo profeta di questo tipo di atteggiamento di sviluppo scientifico, sono le piccole fluttuazioni a determinare i grossi andamenti. Questo è, diciamo, il fondo del discorso, come il caso delle piccole aziende, diciamo, quindi è chiaro che anche l'educazione, l'informatica e il ruolo di un corso di laurea sarà, diciamo, più o meno dello stesso tipo di meccanismo, quindi anche nell'interno di una struttura di tipo educativo, formativo, si riprodurrà esattamente lo stesso fenomeno, per cui ancora una volta, diciamo, ci saranno in collisione, ma non in collisione negativa, semplicemente ci saranno tutte le forze presenti a determinare un modello di sviluppo che però sarà di fatto tracciato da fatti, diciamo, che forse non sono determinati da nessuno, se non da un complesso di logiche in cui queste forze, che hanno una visione del mondo diversa, un modello differente di sviluppo, agiranno. Quindi io credo che anche lì le cose si andranno in questo modo. Però credo che, diciamo, proprio per lo spazio che la piccola fluttuazione, la possibilità, diciamo, del piccolo gesto ha, e quindi della piccola scelta ha rispetto a questa cosa, mette in evidenza in una certa misura che siamo tutti uguali, bene? Cioè che io non sono più democratico di un altro, non lo sono neanche meno, bene? E che quindi anche un altro può essere più democratico, diciamo, può agire in una forma diversa, e quindi credo che sia soprattutto una questione di fare, bene? Cioè di muoversi, non nel senso di fare a tutti i costi, ma di contribuire a un certo tipo di sviluppo. Io credo che gli studenti, ad esempio, nonostante oggi, diciamo, questa tendenza in cui, dicevo, gli studenti vengono bocciati tremendamente, vengono fatte delle cose incredibili, che sono l'esatto contrario di quello che dal mio punto di vista dovrebbe essere fatto. Oggi dovrebbe essere fatto con uno studente una ricerca in comune, con lo studente, su che cosa bisogna fare, su che cosa bisogna imparare, perché non è affatto chiaro cosa bisogna sapere. L'evidenza è il mercato del personale di informatica. È assolutamente evidente che le industrie di calcolatori, piccole, medie e grandi, alla fin dei conti non guardano mica, dico, vogliono degli specialisti, vogliono persone che sappiano muovere le mani, questo è assolutamente chiaro. Però dove non trovano specialista c'è la divisione del lavoro, ma non è poi così vero che, diciamo, un laureato in lettere non vada bene, non è poi così vero che uno che non sappia certi teoremi non vada bene. Non è affatto vero e non è affatto chiaro se questi teoremi servono. È evidente che è difficile però vivere in un mondo aziendale ed è difficile, diciamo, acquisire tutta la complessità della situazione d'oggi. Però la complessità della situazione d'oggi non viene insegnata. Vengono insegnate delle tecniche difficili, delle tecniche complicate, vengono bocciati gli studenti, eccetera, eccetera. Ma la reale complessità d'oggi, quello che in qualche modo renderebbe la persona in condizione di saper scegliere spontaneamente non viene insegnato. Non tutto il male viene per nuocere alla lunga, perché in qualche modo questo forza un certo tipo di meccanismo che porta a un livello di autocoscienza non trascurabile. Quindi diciamo io non sono negativo neppure nei confronti delle bocciature, anche se probabilmente io boccio un po' meno, va bene? Ora, conclusione, diciamo credo che ci sia spazio per poter influire positivamente. L'esempio poi che tu hai citato dell'automazione d'ufficio è un esempio assolutamente importantissimo perché è proprio l'esempio anche su cui in fondo citava lui e che va già in direzioni assolutamente molto molto diversificate. Oggi automazione d'ufficio e piccoli laboratori, diciamo anche secondo una ricerca di tipo sociologico, possono essere pensati alla stessa stregua di quelle che si chiamano le figure del Rorschach. Sapete cosa sono le figure del Rorschach? Quelle macchie che si fanno e poi si chiede cosa vedi. Va bene? Ognuno vede esattamente quello che vuole. Provate a chiedere a qualcuno cosa ne pensate voi del personal computer, va bene? E vedrete che le risposte, se le classificate, sono più o meno dello stesso tipo, questa è la conclusione di una ricerca di un ricercatore, sono, dice, il computer, il personal computer come figura del Rorschach. Lo stesso vale per l'automazione d'ufficio. Quando le cose non sono così definite, io posso proiettare nella mia visione del mondo, come dicevo prima, cos'è l'automazione d'ufficio. È evidente che probabilmente tu proietterai la tua. Diciamo, cioè, avremo questo termine chiamato figura del Rorschach, che è esattamente un modo... In ambito aziendale però questo non è banale, questo diciamo è una primizia, diciamo, perché in ambito aziendale dire cos'è automazione d'ufficio significa mettere le componenti aziendali, bene, o le componenti ministeriali, ospedaliere, sindacali, non ha fondamentale importanza, aziende come sistema organizzato, come sistema quasi vivente, va bene, mette in gioco le componenti a seconda evidentemente degli interessi o dell'immagine degli interessi, poco importa. E quindi l'automazione d'ufficio è il punto oggi di scontro sull'evoluzione, va bene? Di scontro nel senso che è il punto in cui bastano pochissime fluttuazioni. Questa volta il problema della qualità del lavoro, è chiaro che se si parla solamente di uno sviluppo più democratico, però accanto c'è un certo tipo di qualità del lavoro che fa sì che questo sviluppo democratico costa soltanto di più e non produce i risultati sperati, difficilmente questo sviluppo democratico sopravvive. Quindi la mia risposta è come nel caso del reattore di Gettysburg. Il caso del reattore di Gettysburg io ritengo che sia realmente emblematico e le persone che hanno guardato con cura quel processo, diciamo atto per atto, minuto per minuto, secondo per secondo, abbiano fatto un grosso, diciamo, lavoro per tutta l'umanità, più di qualsiasi gesto, di qualsiasi filosofo e di qualsiasi teoria, perché hanno assolutamente convinto che accanto all'aumento della complessità bisogna assolutamente curare l'aumento della preparazione, indipendentemente dal livello della qualità del lavoro. Cioè, se questo si evita, il reattore di Gettysburg un giorno o l'altro salterà. Bene. Naturalmente questo significa che bisogna stare attento a costruire troppi reattori nucleari in una certa misura, non bisogna costruirli, bene, per ragioni ovvie, diciamo, se accanto al reattore nucleare non si fa uno sforzo culturale sulla qualità del lavoro, è garantito che lo sforzo culturale sulla qualità del lavoro è la ragione per cui vi dicevo prima che una persona su 8 oggi è addetta all'istruzione e per cui l'istruzione, ma oggi l'istruzione è anche uno strumento non di soluzione di problemi, ma di mercato e questo è un fatto estremamente negativo. Si vede, diciamo, quindi nell'aumento dell'istruzione non è solamente una cosa positiva, perché si portano persone al limite della cassa di integrazione a imparare cose che forse non useranno mai. Cioè occorre una capacità di previsione rispetto all'andamento, diciamo, dell'uso della strumentazione elettronica, delle metodologie, delle tecniche e di tutti i mezzi di intervento sulla natura e sul sociale. occorre una capacità di previsione molto forte per preparare una persona rispetto a quel compito. Quindi forse quello che bisognerebbe insegnare è molto più semplice, semplicemente ad avere molta pulizia sull'organizzazione del lavoro e da molta chiarezza e diciamo forse qualche cosa che in questo caso è realmente forse troppo utopico perché io insisto in questa direzione. Allora, prima che degli Antoni tragga qualche magari breve provvisoria conclusione, volevo leggere anch'io quattro righe, insomma cinque righe, da questo famoso rapporto Nora Mink di cui già sentito parlare, di cui sentirete parlare nel corso di queste conversazioni a lungo, direi. È la conclusione di un paragrafo chiamato Telematica e conflitti culturali, linguaggio e sapere. Fa parte del primo dei due scenari con il quale questo rapporto chiude da un punto di vista previsionale sulle conseguenze possibili dell'introduzione dell'informatica e della appunto, telematica in Francia. Dicono questo Nora e Mink. L'informazione è destinata anche a trasformare una cultura individuale basata principalmente sull'accumulazione di nozioni. La differenziazione, dicono i due, avverrà in futuro meno sulla base della quantità di conoscenze accumulate e più sulla base della capacità di ricercare e utilizzare le conoscenze stesse. I concetti avranno prevalenza sui fatti, l'iterazione sulla recitazione a memoria. Accettare consapevolmente questa trasformazione rappresenterebbe per la pedagogia una rivoluzione copernicana. La priorità data all'acquisizione di un microsapere universale è oggi dovuta a una concezione della cultura di cui la scuola garantisce la continuità. Credo sia chiaro dal contesto che questa concezione della cultura viene considerata diciamo negativamente dai due estensori di questo appunto rapporto. Una concezione che è strettamente legata alle caratteristiche sociologiche del mondo studentesco e universitario, alla particolare meritocrazia sulla quale esso si fonda, alla ideologia di cui il corpo insegnante è impregnato. E qui volevo chiedere in chiusura a Gianni Degli Antoni diciamo come valuta questo, cioè non tanto se siamo d'accordo o meno, perché questi due francesi sono molto insomma, problematici quando non è che si sbilanciano mai troppo, quindi anche in questo caso. Ecco, ma che cosa pensa di questa sera noi abbiamo appunto parlato, e qua anche credo che sia in qualche modo riflesso, di un processo che in qualche modo mi sembra vada avanti o rischi di andare avanti a forbice, no? Da un lato abbiamo, per esempio, nel caso dell'automazione d'ufficio o dei sussidi didattici, eccetera, abbiamo una serie di possibilità nuove, una serie di strumentazioni diverse, no? Che possono cambiare, per esempio, la qualità del lavoro che noi appunto facciamo, che possono cambiare il nostro proprio rapporto col modo di pensare, eccetera. Dall'altro lato però abbiamo la cassa integrazione, abbiamo la perdita dei posti di lavoro, abbiamo questo, ecco, nel mentre, voglio dire, aspettando che queste due lame della forbice, diciamo, si saldino, se mai riusciranno a, diciamo, saldarsi, non sarà forse un po' troppo tardi quando si saranno saldate, voglio dire, tutta una serie di vecchie tare che ci portiamo dietro non possono rendere diciamo difficile questo compito di cui tu hai parlato questa sera, di cui altri hanno parlato. Ecco, questo volevo chiedere. Sul paragrafo che hai letto, mi sembra che rifletta abbastanza bene quello che intendevo dire o che in parte ho detto. E naturalmente questa questione del microsapere unificante, diciamo, di questa entità, io credo che sia uno sforzo che è uno sforzo guida, che non ha molte conseguenze, diciamo, va spogliato questo microsapere unificante dal suo significato diretto e immediato, ma come sforzo guida verso una concezione più umana del sapere, perché diciamo, è vero che l'aumento della conoscenza, diciamo, rende il problema da disciplinare a metodologico, se vuoi, sempre più metodologico, però è anche vero che, diciamo, le metodologie sono tante e non è affatto detto che applicare la metodologia 1 alla cosa A e la metodologia 1 alla cosa B sia esattamente in termini di percezione umana, in termini di conoscenza umana, perché poi in fondo questo è il problema, sia esattamente la stessa cosa. Quindi io credo che sia necessario, che lo sforzo unificante è l'utopia di sempre e sempre permarrà, ed è vero che è portata avanti dalla competenza universitaria. E a maggior ragione, proprio perché alla fine dei conti un certo numero di problemi nozionistici spariscono dal mercato della necessità di trasmettere conoscenza, cosa di cui la scuola peraltro non si è assolutamente accorta, quindi va detto che siamo già in ritardo rispetto a questo problema, però con lo sparire di quei problemi inevitabilmente sorgeranno, diciamo, un numero incredibilmente alto di speculazioni di altissimo livello, fatte da un numero di persone altissimo che solamente ieri erano pochissime, diciamo, cioè quelli che saranno i problemi difficili di fondo della conoscenza saranno affrontati, questa è una mia previsione, su scala direi sostanzialmente di massa. Come poi ce la si caverà in un problema così intricato, implicitamente paradossale, bene? Questo è un problema difficile, perché in qualche modo farà comparsa nella conoscenza il fatto della paradossalità della comunicazione. A questo punto probabilmente la gente poco alla volta si allontanerà da questi obiettivi così ambiziosi sul lato del fatto che sono trasmessi come obiettivi ambiziosi da un potere, che è il potere che determina il valore sulla conoscenza, e quindi si avvicinerà e sarà disponibile, e questo è un altro punto che era sollevato lui, a una misura del proprio lavoro. Quindi il problema è, diciamo, in ambito universitario, anche per ritornare, c'è la necessità di recuperare una cosa, la misura del lavoro e non il valore del lavoro. Perché se si guarda il valore del lavoro, automaticamente ne sorgono una miriade di differenze. Ma se in qualche modo non si fa una misura, non si è disponibile a una misura, evidentemente il processo non è del tutto gestibile. Quindi una misura del lavoro corretta, non che sia come succede alla National City Bank, dove una trasmissione avete visto tutti, probabilmente sulla Rete 2, non so se avete visto l'automazione d'ufficio come...